aggiungere l'amaro e fare male più che può. Se sono sazi e non lo sai, troppo amore scoppierà. Prendi la maniglia, apri il mio petto, strappa, strappa, strappa quel che vuoi, strappa ogni cosa dal mio petto, dal mio petto. Prendi la maniglia, apri il mio petto, il mio petto, il mio petto. Prova a farmi male, strappa quello che ti pare dal mio petto. Per dispetto ritroverai quel vuoto che hai coltivato più del noi. Fingevi amore, senza amore rimarrai estesa qui. La maniglia, apri il mio petto, strappa, strappa, strappa quel che vuoi, strappa ogni cosa dal mio